Yeah. Hey, ciao Claudio, buonasera. Quando serve qualcuno non c'è mai nessuno, cazzo. Sto provando un microfono su questo 430. Vabbè, non è... è un microfono della Icom, hai capito? Quindi volevo sapere se, se stava andando bene. E tu come sta a posto? Beh, funziona bene, sta a posto. Ah, io ho capito quali sono, ho capito. È un casino a trovarli quelli, no? Quando le cose sono fatte bene. No, io mi ero preso con questo SM20 che ho fatto degli sfruttamenti, e poi se lo provo sul 430, vediamo se spinge, ma mi sembra che spinga abbastanza. Sicuramente c'è poca gente per quello. No, vabbè, è poca gente, che ora sono 5 e mezza. Di solito entrano sempre un po' più tardi, dai, però già si fanno sentire magari dopo. Ascolta Claudio, mentre invece il segnale è sempre uguale, va bene? Dipende dai watt che stai usando, dai. No, questi sono 20 watt, 40 modulati, come l'altra, dai, più o meno, li tengo tutti a 20 watt, no, non voglio forzare, capito? Va bene. Tu sei Santiago 9 oggi, come mai? Basso, pochi watt stai usando? Non sei basso, sei 9 con picchi positivi a 9,5. Di solito il tuo segnale è 9,10, 9,15, capito? Quindi per quello te lo sto dicendo. Poi quando attacchi arrivi in 9,25. Non c'è problema, già va bene, tanto per quello che dobbiamo fare, ce n'è ne avanza. Perché sono carente di DMC60, ne avevo 4 e mi hanno portati via, porca miseria, quindi ne ho 2 solo. Ho 3 radio della Kevod, quindi devo, come non ne ho più, ho detto allora, c'ho l'adattatore, ho detto lo provo, per quello stavo fischiando, stavo provando, insomma ero in cuffia, e quindi c'ho i 2K con l'MC60 e l'altro K con l'SM20, ma l'avevo già provato, capito? Ho anche un altro microfono, MB+5, però no, non mi piace, non c'è niente da fare. Metterlo assieme a questi professionali non mi piace. Ed è testato Kenwood, alimentazione diretta, è nuovo, però metterlo in mezzo a questi non mi piace. Sì, sono delle radio un po' particolari, no, non hanno grandi pretese, però funzionano bene. Se sono trattate bene funzionano molto bene, capito? Va bene. L'importante è che sia funzionante, che quando hai voglia di farti due chiacchiere te le fai, non è quello il problema, capito? Già va bene. Ottimo per la truppa, ottimo. È positivo. Va bene, fammela mandare così. Così controlliamo, vediamo un po' com'è. No, io già la conosco quella radio, non c'è problema, la conosco perfettamente, però ti ripeto, bisogna tenerle bene le radio, perché altrimenti è un casino, capito? Sì, me l'hanno fatta avere dall'America, sì, me l'hanno fatta avere, non l'ho presa direttamente io, me l'hanno ordinata e fatta arrivare, capito? Da un collezionista. Sono molto rare, sia quella che l'altra anche, quelle due praticamente cassonate tutte in ferro, quelle lì sono molto rare, no, lì bisogna metterci qualcosa di vintage, qualche microfono vecchio, anche se non è della stessa marca, però qualcosa di vecchio, dai. Anche per mare, giusto per farlo andare, per vedere un po' come va, però sta uscendo benissimo, alla grande, no, ma sta uscendo benissimo, non ci sono problemi, altrimenti te l'avrei detto, lo sai che io, a me piace sentire bene la gente uscire di radio, poi il segnale non è che è molto importante, però quando uno esce bene di radio, per me è a posto. E perché non si può attaccare? Ci sono problemi per fare una manovra del genere, cioè nel senso che c'è da mettere qualche adattatore, qualcosa del genere? No. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Qui sta una portantina leggera leggera, ma ancora presto, sono tutti ancora indaffarati, in sicuramente in pennichella. Vabbè, vediamo un po'. KK di Roggero. E io alle 6:20 devo uscire, devo andare al bar da mia figlia. Tutti i santi giorni, tutte le sere vado a buttare la mondezza e a darle una mano, e poi, perché lei va a piedi, capito? E poi vado a prenderla io alle 6:30 quando ho finito di fare le pulizie. Attento, Ferivella! E beh, guardare, com'è? Tutto Roger! Tutto Roger? E lui! Lo senti a Chiodo da Muros? Sì, ma insomma lo sento. Ciao Chiodo! Ma anche io ti ascolto bene, segnale 1, però riesco a tirarti fuori senza problemi, dai, salutoni! Claro, tu sei sul più. Cosa hai combinato? Cosa ho combinato? Niente, stavo provando, tornando con 430, sicuramente c'è un po' più di potenza. Per 430, da quando ho tolto la T250, c'è la T230, l'accordatore, dai, Rosa, mi trovate, invece lo strumento. Non ha la scala come il 140, il 440, eccetera, no? La scala del power. Quindi mi sono regolato a Santiago 9, grazie a 50 watt importante. Sì, praticamente vai tra lo 3, tra il più e il 3, in mezzo, sì, là. Sì, grazie a tutti, lascia stare così, sto sempre regolando, intanto. Quelle chiuse sono sempre queste, non è che cambia molto, dai. Sto usando l'SM20 però col 430, microfono della Icom con l'adattatore. Non c'è Cristo, questa voce è proprio da Claudio Villa, ragazzi. Ma è forte. Ehi, allora, mi ho sentito da lontano, mi sposto, vado un attimo in soggiorno qua. Ma se ci siete dopo, la riprendo. Allora, avanti, Chiodo, riprendi. Sì, raga, dai, mi ha fatto piacere ascoltarvi, se mai ci sentiamo più tardi, se no stiamo tra sera in radio, dai, tanto io sono attivo qua in stanza e sto facendo alcuni lavorettini, giusto per ammazzare il tempo, spostamenti di microfoni e di balle varie. A dopo Luca e a dopo Claudio, dai, ci sentiamo dopo, ciao, a dopo. Hola? Hola. Hola. Ma cosa c'è, FM? Io no. No, lei mi barisi a me. Io sono in AM, Nicola. Ti sento tutto spostato. Oh, vero. Hola. Adesso? Tutto spostato, sì. Avanti, a tu. Già te ne ho bombo, aspetta. Ciao Claudio, comunque, là. Antonio, adesso bene, va, c'è la fila e corse spostate. No, oh, l'hai spostato di nuovo. Non va così? Hola? No, no. Ma cosa stai usando? Dove sei? A casa, col 3009. Bombolo, come mi ascolti di radio? Ma in frequenza solo, perché Claudio mi sente spostato, boh. Tu come mi ascolti? Prendi quel tasto là. Ci sei, Claudio? Vabbè, non mi risponde, aspetta che mi incontro lui. Io ti sento sfogato, non so. Che cazzo c'è qua? Hola, 1, 2, 3, prova. No, io sto scendo bene, Claudio, mi sta ascoltando. La radio è perfetta. Oh, Claudio, guarda che non sei spostato tu, magari che hai toccato qualcosa, perché io mi sono ascoltato in cuffia e mi dà la radio buona. Vabbè, sto controllando io, dai, non ti preoccupare, lascia tutto così. Lascia, non ci sono problemi. Claudio, prova a ascoltarmi con un'altra radio a vedere se è la stessa cosa, vai. Hola. Attenzione, bombolino, bombolone, ci sei? Attenzione, bombolo, ci sei, cambio. Anto, non ti ascolto se stai parlando, Premi l'SP. Sì, che ti sento. Come mi senti? Guarda, 1, 2, 3. No, aspetta, c'è un problema io già con te, mi satura la modulazione. La tua mi satura la modulazione, Antonio già lo sento bene. Che strano. Prova col microfono abbassato a 5. se ti fa lo stesso difetto. Bobo. Attenzione, bombolino, se ascolti doppio rum cambio. Ora, attenzione, bombolino, sì. Ehi, dai, sono sempre io, sto facendo la prova. Dimmi, Claudio. Ma già ti sento bene, Antonio, non ci sono problemi. Vai alla grande. Dov'è Antonio? Claudio, Antonio dov'è? Vicino a casa, aspetta lei. Ah, perché non lo sento? Bombolino, bomboletto, mi ascolti? Fuori di l'antenna della moto, del motocarro. Scusa che ho il telefono, cosa hai detto Gianni? Gianni, cosa hai detto? C'era questo qua dell'acqua, uff, ci ha chiamato. Beh, con l'altro apparecchio ascolta, vediamo un po' se mi ascolti ugualmente saturo, come dici tu. Bobo. Oh. Hola. Claudio, ma mi senti? Sento male già, c'è un problema alla radio. Ma hai provato a provare un'altra radio, a vedere se la radio se sono io? Prova a vedere. No, c'è un problema in questa radio, e sto provando. Che radio è? È un Voyager. Lucrezia. È meglio. Luca Fippers. E siccome ti vedi tutti i savozzi, ciao Lu, qui qua sono, come sto uscendo di radio? Bene. No, perché Claudio poco fa mi ha detto che avevo fuori frequenza, ma probabilmente ha detto che dipende da lui, stava controllando l'apparecchio, andava, hai visto che il vento mi ha fatto caputo. Ma cosa ti sembra? La classica modulazione dell'MB? No, questo qua è la modulazione della static. Però sembra l'MB, capito? Quel metallico strano. Capsula ceramica, come c'è l'MB più 2, più 3, eccetera, eccetera. Tutte capsule ceramiche in America fa. Io ho un SBE che ho messo in vendita, nuovo, è stato ristrutturato, restaurato, e di quelli neri, bello, ci boccio in vendita, intanto non li uso. Ma da palmo? No, da tavolo. No, io da tavolo qua non posso mettere nulla perché c'ho... ti spiego, il mio mobile è fatto a ripiani, quindi tra un ripiano e l'altro, se il microfono si fa abbassare la stina, ok, se no non li posso mettere perché quelli solitari, quelli a livello di MB più 5 non ci stanno. Sì, l'ho vista dopo, no, l'ho fatto su Facebook forse. Allora puoi mettere tipo l'M600, quelle robe lì. Allora, no, io ho tutti i microfoni, ho l'M93, ho questo qua, la static, ho l'altro, è un Proxel, sono tutti i microfoni amplificati, però da palmo, capito? Poi a me mi viene meglio perché io mi sdraio e parlo col microfono, ma anche nel Galaxy c'ho quello diciamo da tavolo, però non posso, perché quello del Galaxy è più alto il ripiano per farcelo stare bene, capito? Sì, se hai quella condizione lì, sì, devi per forza usare quelli palmari. Non è entrato nessuno, io ho acceso adesso, sono rientrato adesso che ero al centro diabetici e poi a montare uno scaldabagno. Aspetta, ma è perché ti stanno visitando a te? Perché io sono abbandonato da quel centro e non mi stanno, mi dicono di mandare tutto via email, ho mandato le analisi via email, tu risposta ricevuto ne hai, o altrettanto io. No, io sono seguito, ma prendo anche la Palazzo Rosa, capito? Io c'avevo la Scardaccia, è andata in pensione, quella lì adesso mi hanno dato questa qui e a San Camillo, non c'è nessuno, arrivi lì, fai, arrivando entrando direttamente, capito? 5 minuti e te ne siamo detti. Ma prendo anche anche al Palazzo Rosa. Però non so se devi fare tramite CUP adesso, non lo so. Ma che ne so, so solo che loro stanno facendo tutto tramite. L'altro giorno sono andato perché dovevo fare le analisi. E niente, non c'avevo una richiesta per fare le analisi del sangue. E mi è arrivato l'infermiere, mi ha detto no guardi non può salire, noi non stiamo facendo più nulla, deve fare tutto via computer. Ho detto scusi, a me mi serve il foglio, io non c'ho stampante, e a me mi serve il foglio per fare le analisi. No, non ne facciamo più di fogli. Ho detto lei vada dal dottore e glielo dica che sono venuto io per questo motivo qua. E ha detto aspetti, sino a me guardi che glielo sta facendo, ah bene. E la guardia giurata ha fatto come ti dice, non si va del tindino che rubo un risotto. Quello sì, se essendo tutto chiuso, tutto, no, a San Camillo già ti danno l'orario. No, io ho fatto urine, ho fatto il sangue, visita oculistica quando sono andato a pronto soccorso, meno male perché sennò tramite CUP chissà che non me la viene data. Ho portato tutto oggi, capito? Così che no, già sono seguito, sì. Adesso l'altra ad aprile ce l'ho. Allora io in questi ultimi tre giorni mi stava succedendo una cosa, quando faccio l'insulina della notte, la Lantus, praticamente mi viene tachicardia e un dolore forte al petto. Ho diminuito il tanto che mi aveva messo lui, invece che 40 ne ho messo 25, sto bene adesso. Ma che strano, può essere ansia però. Ma che ne so, può darsi che sia ansia, non lo so Luca, però mi sono spaventato, l'altra notte stavo aspettando che mi venisse l'infarto, cazzo, mi sentivo questo dolore forte al petto, questa tachicardia, cazzo, come mi sono sdraiato, mi ho fatto l'iniezione, poi mi sono sdraiato nel divano a guardare il televisore e comincia tum tum tum tum tum tum, il cuore che mi batteva a mille, tocca, se no che mi viene un infarto. Mi è venuto questo dolore forte al petto, poi per tre giorni è stato così e ho notato che dopo che facevo l'insulina mi faceva questo difetto. E tavano mi butti più, ho preso e ne ho fatto 25 invece che 40. Boh, tranquillo, la glicemia stamattina era a 180, vabbè, però sono stato bene, capito? Non è che devo usare la grimbabba per abbassare l'insulina. Ma infatti è strano, io adesso me l'hanno aumentata a me, da 20 a 26 la notte. Se tu ce l'hai comunque regolare, adesso 180, vabbè, ma per noi 180 è normale. Ma sicché quando ne facevi 40, quanto ce l'avevi? A volte mi si abbassava, a volte ce l'avevo lo stesso alto, lo sai, non mi faceva nulla a volte. È una cosa strana, capito? Adesso sto mangiando pesce, cose, ce l'ho sempre regolare tutto il giorno, 96, 100, 120 al massimo. Mangiando il pesce è inutile, scende un bel, solo che non puoi mangiare sempre il pesce, poi a me non è che mi piace tanto il pesce, lo mangio sì, ma non è che... C'ho anche amici pescatori che me lo regalano, questo e quell'altro, ma non me ne fotti nulla, non mi attira più di tanto, se mi regalano calamari già mi piacciono, calamari, polpi, crostacei, frutti di mare, ma il pesce proprio lo mangio perché so che lo devo mangiare, che il nostro corpo lo richiede, però non è che mi attiri più di tanto, ecco. Così sono io, dammi polpi, calamari, seppie, le cozze, queste robe qua. Ma ora te ho saraghi, no, sì, se lo devo mangiare lo mangio, ma non è che ne vado matto. Infatti oggi mi ha dato un balvigato, due saturi di omega 3, di cose di pesce, di merluzzo per il fegato, capito? Quelle molli, quelle capsule molli, perché io gli ho detto, non pesce non ne mangio, insalata non mi attira proprio una cosa pari, non c'è soddisfazione, non è che non la mangio perché, così che, e allora mi ha dato il bacchiglia va, perché i trigliceridi sono sempre alti e non riescono a cavarne piede, capito? Ah ecco, vabbè. Quello lì già è un problema perché poi i diabetici hanno questo problema delle placche nelle vene che si formano io addirittura avevo il collo del piede che mi sentivo il piede strano, mezzo addormentato e così sono andato a fare l'ecografia e hanno trovato le vene che passano nel collo del piede, una al 20% in meno di quello che dovrebbe avere, mi ha detto che è normale per i diabetici, che non è una cosa grave, capito? C'ha un 20% di restrizione dell'artiglia, capito? E quindi mi ha detto che devo prendere pastiglie, me le ha date, che se pastiglie per i trigliceridi e colesterolo. Sì, colesterolo alto c'ho, se ti dentro dove passa. Non lo so già, siamo... quanto c'è senza fare la visita? Una barca di tempo, minimo quasi un anno sono che non faccio visita, quasi un anno, da quando c'è il coronavirus. L'ultima volta che me l'ha fatta, poi no, sono tornato e non me l'hanno voluto fare, quindi ci hanno abbandonato proprio, perché gli ho detto, dillo al dottore che siamo abbandonati qua, perché cazzo, qua noi dobbiamo essere seguiti, non c'è, c'è nulla da fare. Infatti mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto, guarda che stanno facendo le visite a chi non è seguito, eccetera, eccetera, le stanno facendo gratis, non so dove, chiama il numero verde, mi ha dato il numero, ma non rispondevano. Adesso ci riprovo domani. Se no ti avvicini al Palazzo Rosa, ti spieghi la situazione, magari ti danno un diabetologo da fare, non so. Però il tuo medico ti può richiedere, l'esame del sangue, così sai i trigliceridi e tutto quanto stai andando o bene o male, almeno quello lo vedi. A stomaco gli esami te li hanno fatti pagare del sangue adesso? La metà, per qua giù, la metà ho dovuto pagare. Vabbè, c'erano anche le urine, 16 euro ho pagato, sia per uno che per l'altro, in tutto, capito? Stanno facendo pagare. Lo so, stanno facendo pagare per la sfida del coronavirus. Il mio dottore non voleva farle tutti i posti, tranne che il latte dolce, non voleva farle, ha detto che fanno gli esami sballati, che li ha confrontati molte volte e sono sballati. Li ha fatti fare da due o tre parti a un paziente che li faceva lì ed erano sballati. Boh, poi se è vero, se non è vero, non lo so. Io ce l'ho anche qua, un laboratorio, poi a pagamento. Io sono esente e mi ha fatto pagare 16 euro, 50%, perché dice che la regione non sta stanziando, capito? Non sta stanziando, non per il coronavirus, quello non lo so, però non stanno stanziando soldi, e così che questi laboratori sono obbligati a far pagare a chi è esente, per esempio, il 50%. C'era un signore che ha pagato 70 zincola di chi vero io, che ha aggiudito, Ma tu l'esenzione l'hai presentato? Io ho l'esenzione, e chi ha l'esenzione però paghi, sì, paghi la metà, 50%, capito? Ti ho pagato 16 euro, per urina e sangue però, capito? C'erano anche le urine. Vabbè, io l'esenzione ce l'ho lo stesso, perché se ce l'ho fatta a farci per validità non c'è esenzione. Però, dice che stavano facendo pagare adesso, appunto, l'ho sentito al televisore che stavano facendo pagare, e bisogna che io mi rimetta in moto, glielo dico, se me li fanno, se no me ne vado da un'altra parte, vado al CUP e mi faccio trasferire di medico, c'è poco da fare, ma mi pare che lo fanno direttamente lì, capito? Tolgono un medico e mettono l'altro, lo fanno direttamente lì al Palazzo Rosa. Avvicinati, io vabbè avevo preso appuntamento tramite il CUP, questo prima del coronavirus, pensa tu, e poi c'era il casino che la Scardaccio stava andando in pensione e poi hanno trovato questa qua a San Camillo e me l'hanno dato lì, capito? No, già è in gamma, infatti l'altra volta quando sono andato il mese scorso subito ma ha voluto rifare tutto da capo, urine, sangue, capito, cliccata, tutto calendario nuovo, tutto così, dice sei con me e voglio vedere come stai andando. Compri? A me la Scardaccio non è mai piaciuta, l'ho avuta anche io, l'ho cambiata subito perché non si ricordava la cosa da un momento all'altro. Se l'ho l'ho detto l'altra volta, scusi, non se lo ricorda più, io non mi ricordo, c'ho tanti pazienti, che se c'è? Il dottor Fresu è un bel dritto, cioè si ricorda tutto. Bravo, quello è bravo, l'ho avuto per un periodo quando la Scardaccio mi sembra era in ferie. Bravo, sì. Casotto, a me mi ha fatto ricoverare dei zirichi, Samacca. Perché diceva che con i trigliceridi così alti io dovevo bermi almeno una cassa di birra al giorno, se un drug abusivo. La gente guarda che io non bevo, dottore. E allora faccio recuperare, va bene. Come ti sono entrato, sono uscito da limpidare, né più né meno. Ma... cavolo, una cassa di birra allucinante. Invece a me mi diceva, le dica a sua moglie di fargli fare di più l'amore perché così almeno mangia di meno. No, a me mi ha detto, visto il peso, mi ha detto cerchi di correre, di camminare, di smaltire, e ci già smaltisco mezzo piatto di macaroni o una fettina. Madonna, secondo me quando non ne tolgono piedi, la mamma ha dato pure la visita alla prostata, dice vediamo un po' se è quella, perché tutto può essere, sicché dobbiamo andare a esclusione. Prepara di Luca. Sì, che bello! Che ti c'entrano il dito nel cueros? Ci fanno brutta figura loro. Tu scorrigio. Tocca farmi l'uclistere. Io non lo sapevo la prima volta che sono andato, poi non sono più andato perché mi ha talmente dato fastidio che non sono più andato. Cazzo, sono andato a fare la visita e mi ha fatto quella cosa, devo andare per via Rale, mi ha fatto. Come? Scusi? Devo andare per via Rale, solo da lì si può capire se ha problemi alla prostata. Cazzo, vabbè, cazzo avuto, non cosa si è stato l'udito. Non muoveva, lo girava, lo faceva per cercare se c'era perturbanza, roba del genere. Per dire non c'avevo nulla la prostata, ma se c'è problema alla prostata te ne accorgi subito. Ma infatti io dico i sintomi, cazzo no. Mi ha detto, ma lei è stanco? No, oggi? No. Vabbè, la facciamo lo stesso, è diventato un burro mio. Se ha problemi alla prostata, uno non ti funziona più. Due, stai. Quando pisci non hai pressione con l'urina, ti scende proprio senza pressione. Te ne accorgi da queste cose? No, mai avuto quei sintomi lì. Beh, magari per voi mi piace e chiedo un altro appuntamento. Chissà, magari ci prendi gusto, e vale la trasponda. E comunque un po' tutti si stanno lamentando del centro diabetico perché non è possibile, devono ricevere, per appuntamento ma devono ricevere, cazzo cos'è questa cosa di non ricevere? Tutti gli ospedali fanno le visite, cazzo il centro diabetico che è una cosa vitale, perché è vitale, se uno risale la glicemia di corpo si rimane, viene un coma diabetico e ci rimane. Invece loro cosa fanno? Preferiscono tenere i bar aperti, ok? I ristoranti, i bar, e chiudere gli uffici, cioè ma ci rendiamo conto? Poi a Natale ci sono 15 giorni per fare la spesa, eccetera, adesso si torna di nuovo l'ondata, viene, te lo dico io, perché a Natale tutto quel flusso di gente che va a comprare, sempre in mezzo qualcuno ci sarà. Io Luca ti dico la verità, sto uscendo da casa per farmi la spesa e non sto andando da nessuna parte. E se esco con la macchina, mi sono dritto la macchina mia e niente, faccio la parlata al baracchino magari, però a uscire come andavo prima a pizzeria, questo e quell'altro, non ci sto più andando, me la faccio portare a casa la pizza e quando arriva il pizzaiolo c'ho sempre la mascherina. Certo, manco più a pescare stai andando allora? No, a pescare non ci sto più andando, sono andato una volta, ho preso un'orata e tre saraghi e basta, e poi un'oratella sui 600 grammi, i saraghi erano meglio lo stesso, però sono andato di notte, capito? Sono andato di notte e c'è un po' di freddo, non resisto più come prima ragazzi, mi fumavo la sigaretta, mi intrattenevo così, ma non sono più fumenti, mi annoio, capito? Non è più come prima. Poi prima c'era anche la competizione, alle volte ti ingrefa 1-0, 2-0, così si pigliavano i baroglussi, no? Adesso tutti quanti, mia moglie non vuole, il sabato vuole andare qua, e l'altro che no, mia moglie pensa poi il male, che magari andiamo da qualche altra parte, capito? Tutti così sono. Ma... perché almeno in due bisogna essere già. Oh, anche io andavo da solo, anche con la canna da pesca andavo da solo. Pensa di fare la budaghibi da balai, prende Braiecia. Faccio tutta la scarpata lì, è da solo. Ma d'estate però, capito, d'estate. Però, boh, la una, mezzanotte, me ne durravo. Andavo all'imbrunire e tanto quelle lì erano le ore. E anche a pesca subacquea, la maggior parte andavo sempre da solo, capito? Però la subacquea non ti annoi come la canna da pesca, che lanci, devi cagare, rasura, esità, poi soprattutto quando non ha bocca, ti piglia male, ti piglia. Mentre la pesca subacquea sei bene o male sempre tu alla ricerca del pesce, tane, polpi, ghidu, cammini, anzi ti passa il tempo, manco te ne accorgi. Ma Luca, andare a fare pesca subacquea da solo è sbagliato, e guarda che una volta me l'ho vista brutta, mi sono incastrato, e dal giorno mi sono venduto tutto, mi sono incastrato in una roccia, ho sparato un sarago, che ho preso la pancia, e è riuscita la fiuccia, perché c'avevo la fiuccia, è riuscita dall'altra parte, l'ho tutto sbudellato, cazzo, ma vedo, sarà stato 1,2 kg così. Fatto sta che è riuscito a entrare nella tana, ma nuotava tutto, si muoveva tutto gatto male, così camminava, nuotava male. Sono entrato in questa roccia che mi sono incastrato, c'erano i ricci sotto, mi sono incastrato la testa, andavo nella testa e mi pungevo, alla fine ho dato uno strattone, mi sono riempito di spine, sono arrivato sotto, mi sono attaccato ad un ballone, il cassero bianco, gomenti rugoso, ed è passato, c'era questo qui, gommone, mi ha detto, ma c'è problemi, ho detto, praticamente mi è successo, vai, sali sul gommone, ed era un amico di mio padre, cazzo, e non vi l'ha detto, cazzo. Se trova tuo figlio era... Ah, così è. E mi ha detto, mio padre, se ti vendi tutto ti do 500.000 lire. Ti regalo 500.000 lire se ti vendi tutta l'attrezzatura. E me l'ha giù venduta. E dopo non ci sono più andato. Ho preso sempre il cane da pesca, cose così. Cosa devo... Cioè, devo rischiare la vita, no? No, se vedi, se fossimo stati in due, uno aiuta l'altro. Ma cazzo che lui sia rasura, te la vedi brutta, eh. Io sono arrivato che non avevo più fiato. Già, però se vai in due, anche quando vai in due, un conto se vai in due in alto fondale, uno sta su, ok, e uno sta va giù, e quello è giusto. Ma quando entri da riva che sei poca acqua, non puoi stare vicini uno con l'altro, ma si non piglia la nuda né uno né l'altro. Che anche se sei in due in basso fondo, cosa fai? Una dritta e una manca, che sennò non fai niente, sicché il pericolo comunque c'è sempre, perché anche a me è capitato di entrare in sicurezza però, nelle tipo grotte così, ma in sicurezza, prima me la guardo, se è possibile accedervi, e naturalmente entro a midday, non è che entro tutto e cammino così, no, se a guardare e boh, al massimo alla vita, boh, e devo essere sicuro che ho il coso di uscire, se no non c'entro neanche, capito? Rubescio si abbiglia in gomme di Bossamà. No, a me solo qualche volta un problemi di crampo, ai polpacci, quello è brutto, beh, quello sì, però grazie a Dio sei in basso fondo, ti appoggi agli scogli e aspetti che passi il dolore. Quello sì, però no, episodi del genere non mi sono mai... No, a me piaceva andare da solo, poi entro quasi che è ancora buio, non è che zitto, piazza Lusoli, no? Oh. Io lo stesso, io entravo presto, andavo alle 6 di mattina, entravo presto e uscivo come usciva un po' di sole, trovavo polpi, senti di tutto. E io andavo al quinto pettine, ma non avevo più nulla, andavo al quinto, andavo oltre gli scogli, in fondo, prendevo scorfali, di tutto prendevo lì, cazzo ne scorfano. C'era una tala di seppie praticamente che rimaneva sotto la roccia, scavata nella sabbia che andava sotto la roccia. Lì c'erano sempre le seppie, se tu andavi le beccavi sempre. Ne ha preso. No, riesco a fare nome Biagi a sparare. Oh, e anche perché io li metto in cintura, non è che ho la rete, capito? A meno che non siano da mezzo chilo in su, ma se no manco li sparo. Oh già, proprio lo scorfano, guarda, lo scorfano, la ragna, assolutamente, a meno che non viene un bel, allora sì, li metto nel rettino, sotto la boa, quello sì, ma se no, non mi piace ai paralisi pesci, io guardo Sara, gli orate, le spigole, le lecce, tutto questa roba, sì. Aspetta un attimo, già. Beh, Claudio, risolto. Non lo so, aspetta un attimo. C'ho anche mal di testa oggi con questo cazzo di radio. Ma è una radio nuova o radio che hai recuperato? Non è radio, l'ho comprata, l'ho recuperata. L'hai comprata? Deve avere qualche trimerino che hanno toccato, qualche resistenza variabile sicuramente hanno toccato. Ma se sei con quella stai scendo un bel bene. No, la trasmissione è una bomba, non è la ricezione, ma non con tutti però, non con tutti, capito? Non so perché. Ascolta, ma non sarà quel filtro famoso da toccare come c'era nel Kenwood, che quando uscivano con gli apparati modificati dovevi toccare, adesso non mi ricordo come si chiamava quel filtro. No, non è questione di filtro, è questione che ci hanno messo le mani dentro. Hanno toccato sicuramente qualcosa che non dovevano toccare. Oh yeah! L'ha preso da fuori, qua. Cosa, già? Dove l'ha preso? Fuori? Sì. Quella è la fregatura, che se non vanno bene poi te la devi pigliare in luce. Vabbè, già. È una media frequenza, non è niente. Non c'è problema. Sì, vabbè, e tu farò toccare da qualche dottore, no? Non lo toccare tu, magari peggiori le cose, lascialo stare, lo fai fare a chi lo sa fare. Io già lo so fare, che non c'ho, ci vuole un tratto di spettro, ci vuole filatore, cioè per toccare medie frequenze non è che per mettere il cacciamite e fare cagate, ci vuole lo strumento, se avessi avuto lo strumento me l'avrei fatto io, ma non c'è lo strumento. E appunto, è quello che ci vuole, lo strumento. Hola. Io già non so che cos'è, non è un problema. So anche dov'è la rete già variabile, la filatore. Non è lo strumento per fare la apparatura giusta, capito? Appena è praticamente sento come che sia fuori frequenza. Cava cava. Hola. Dei miei picchi positivi questa radio. Io è vero, anche qua ce li hai positivi. Aspetta un attimo, certo. Devo mandare un messaggio a un tecnico a vedere se mi presta l'analizzatore. E non è meglio che la reghiai, ti trova direttamente. Vediamo, sento, se la posso portare, se me lo presta già lo so usare. Aspetta un attimo. Cava cava. Ciao. Attento Luca, ci sei. Apri. Non parlate più. Boh, non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Luca. Non la radio è già andato già. Ehi. Tu mai la radio lo diventa di manca. Un po' ti ascolto acuto, un po' ti ascolto meno acuto, un po' con l'eco. Cazzo di tu. E basta a numero, no? Le faccio girare, perché sennò poi si rovinano, già lo sai, che se non li tratti da voi andate a trattare non sul canale più. Ho capito, ma giusto per farmi un'idea di come la ricezione, capito? Se tu cambi, io ti ascolto, mi versano, non ne tolgo piedi. Sì, sì, sì, me lo sta portando, adesso appena chiude me lo porta. Fa una mezz'oretta me lo porta. Andave. Perché questa qua male esce? Come mi ascolti con questa? Meglio o peggio con quella radiolina? Non è più cupa questa, capito già? È più, ti capisco, però è più cupa. Quella era più bella, più acuta adesso. Ognuno c'ha la sua, quella là è più metallica, c'è chi dice che è metallica, vabbè. Mi accontento, chi si accontenta gode. No, ragazzo metallica, no, di grande serì, va benissimo quella là già, non bene, va benissimo la grande. E le migliori sono il Galaxy e cose, quella che uso a casa, dai, il Galaxy è 3009. Questa qua, vabbè, è una radio da battaglia, l'ho presa così, però mi piace di più il Galaxy, non venuta di va. Vabbè, ascolta già, ma cosa stavo dicendo? Prova a mettere il microfono, quello, la radio che ti ho sentito prima, volere. Non posso qua, perché questa c'ha l'up-down e c'ha 6 attacchi, capito? Invece l'altra è a 4. Ok. Se avessi avuto la prolunga già l'avrei potuto fare, ma non ce l'ho, Adesso mi dovrei far cambiare il cavo da Luca del microfono che ho e appena pennellato sopra, ma l'ho aggiustato, però non mi piace aggiustato, mi piace più nuovo. Già va bene, non c'è problema. Non c'è problema. Aspetta un attimo. Luca, ci sei? Io? Sì. Ehi. Stavo rispondendo al messaggio. Cappa l'esogero. Va bene. Dai, riprendete intanto le frattempo, non mi porta l'analizzatore. Mi faccio la taratura dello smitter con lo zero. Lasciami lavorare un attimino i parametri perché non me lo ricordo più come si faceva. Aspetta che faccio il collegamento al Master Pro. A metterlo qua a vedere come va. Prova. Perché così le cambio la capsula al limite. Dai, faccio un attimino le connessioni, collegamento veloce, volante. Io stavo saldando sino a poco fa, stavo facendo lo spinotto, che ho fatto un riduttore per la macchina, da accendere sigari a banana, a bananine, perché ho alcuni apparecchi che hanno l'attacco a bananine per stare a cambiare gli attacchi, se lo metto a bananine e accendere sigari va bene, perché Claudio l'attacco che mi ha fatto Puzzi, che è quello lì, è anche un attacco di chi si... spinotto chiuso, non è di certo bananina, no? È uno spinotto chiuso che tu ci sono gli attacchi interni, non si vede nulla, è una cosa di lusso, ovvero se te lo faccio vedere l'impianto, non ti accorgi manco che l'ha fatto. Claudio, ti è arrivato frequenzimetro. Claudio, sto facendo cosa? Fai. Ma non entra nessuno stasera, Marco Condor, all'ascolto sì, aio entra. Facciamo l'appello, su forza, datemi da fare, entrare. Luca Manicomio, ci sei? Chi è? Avanti. Non fare di gasatoia, Isua. Beh, non c'è più nessuno qua. Interbara, attento, Bingo Bongo. Sassari, non sono Amores, lo so, purtroppo abito montagna, per quello che mi senti così forte. Comunque anche tu, Santiago 7, sì. Ma ti sento male di radio, boh. Ah, in macchina, sì. E vabbè, l'importante è arrivare. Ma sì, dentro Mores. A me mi ascolti bene, sì. Ho capito, ho capito. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo, carissimo. Ok? Ciao, ciao, ciao, grazie a te. Che? Ciao, Claudio. Franco, tu sì. Ciao, perché non ascolti bene? Usci tutto moscio, basso basso di radio. Sono lontano dalle cose. Ma tu vuoi dire, ma cosa lo vedi che gira? Boh. Perché? Bene, va a fuggire adesso. Adesso sì, adesso va bene. La fuggirata non la controllo, Sono lontano. A me non mi piace come già attaccato a voi. Io sono a 30 cm lo stesso, poi sto facendo la letteratura a una radio, quindi sono anche distante, ho le cuffie in testa, ogni tanto me ne riluca che mi va risolto. Mamma mia, è giusto, io dire io. Alla fine si. Tu non mi dici la legge, Gesù. Ehi, lascia perdere, fa. Infatti non ne faccio più, no? Stavo facendo due rullate così, dai, giusto per far andare un po' più la modulazione. Adesso l'ho regolata, già va bene. No, va bene, va bene. Via, buia. Sì, stava che regolata, ma non era uscita. No, non è la mia questa di uno che l'ha venduta, prima di venderla le stavo dando un giro di chiave. Capo, per aprirla un po'. Sì, non si intendiamo anche come ci sia santa giomai. Che cavolo, non lo era più più massavano. No, la originale, fa, originale originale. Tremerino del Mickey Game chiuso, tutto a zero, LC completamente a zero, solo per la banda laterale, non c'era ultimo decimale, niente, 140. Adesso l'ho fatto questi due ritocchini nel mio piccolo, le cose che so fare, adesso la sto chiudendo e poi la metto dentro la scatola e gliela spedisco. Senza. Bene vera, bene vera, vabbè ci prendo, tu l'hai sempre fatto prima, poi per esempio, io tutti lo scappa, ma io non mi capo manco una vita. No, ma sono proprio due fesserie fra che mi hanno insegnato, solo quelle faccio io, non mi sono mai permesso di toccare altre cose, perché per toccare altre cose ci vogliono gli strumenti. Ce le ho sempre scritte, so dove andare a toccare la resistenza variabile, appena appena, proprio un giochettino di carruzzo in cuffia, giusto per andare appena appena di radio e via. Senza ducarlo, perché se vai a toccare poi rischi di fare danno. Ognuno il suo, fra, ognuno il suo. Già, lo credo, solo sì. Aspetta, che devo dare una roba corrente a mia figlia. Fai. Che palle, non mangio bugami, fra, non mangio bugami e va nuda, proprio nuda mi. Ecco, è bene a sapere com'è. La circolazione com'è? Già è buona. Il Covid sta abbassando, piano piano, poi se ci chiudono ancora è meglio, io preferisco dare un po' più di spazio da gennaio in poi, a dicembre deve rimanere così, anche se no la gente ne approfitta. Ecco, senti la gente in televisione, sono morrognelli, che non possono andare a fare il cenone, non possono andare là, non possono andare all'altra parte. E gli sta la rosa, fanno degli altri cose, di barbara lusso, dici, basta fare i tamponi prima di andare fuori e poi vedere a cura si deve fare un tampone. È da Gianni Biadri che si batte a tampone a cura, che mi sta sulle balle, cazzo. Una presentatrice si dichiara giornalista, non sa manco cazzo parlare l'italiano, è da giornalista, ora è da Macari Gardena. Sì, vabbè, questa oltre giornalista è diventata popolare, ma è diventata la gente la incosta e purtroppo è vero. Comunque Sabri mi torna, se a Natale Abri a che cosa si può fare? Se a Natale danno il via fra, siamo futidi, non futidi davvero, bravo me, capito? Ah, me la metti due minuti la portante, due minuti solo. No, ancora. Registrato, lo smetti? Sì, appena, ma io avevo già fatto la taratura dello zero, solo che stavo aspettando un segnale per conferma. Sta bene, e poi questi se non sono stati mai toccati, meglio non toccarlo mai, lo smetti. Sì, ma già l'hanno educato, però. Se stavo educato, non è così. A regolarlo bene, poi non ci dici più. Sempre gli strumenti ci vogliono, infatti. Io prima faccio lo zero, poi do un segnale con senza antenna, col carico fittizio, e diciamo che non è preciso, ma comunque meglio di com'era, per carità. Ecco, io avevo Connex, che è stato toccato lo scooter, era stato toccato. E questo Smitter variava, non guardava mai i segnali, da una star radio, da un staccavigista, a ridere da tutto una star radio, praticamente 5-6 punti. Addirittura, e poi non si dice più, ma com'è che c'è qui? Un casino, oia. Bene, vera. Sì, hai silenzio. No, già stiamo andando bene. Sì, no, io stavo guardando lo smitter mio, con lo fissi grazie a bomba. Esiste? Prova a parlare. Chiappa, vedi a vedere. Progetto. La motivazione è buona, sì? Sì, alla grande. Sei sempre... sempre lei anda un giappo, sempre allo stesso modo. Vabbè, va bene, sì. E c'è il latte, la sopravvino l'attacco. Senti che siamo un muto, bene. Oh, questa com'è, Clark? Sì, già va bene. Sì, capo, dai. È la 705. Ottimo, ottimo. Microfono originale. E non c'è uno spettone, mentre si smette 60. Oh, non ne avevi? Sì, ma l'ho agganciato e non va. Fischia. Fischia, vabbè. Una baradura inizia la malombrando, ma si è agganciato adesso? No, a 4 ce l'ho, saranno una decina di watt. Eugenio, non vi basta mettere il bando a me, guarda se lo senti tu, fra. Ah, guarda se lo senti tu, Eugenio. Però io ci sei. Via. Ho detto, questo stazzone lo fanno, lo vendono fatto già, no? Il cavetto la panga, sì. Quello da usare dall'MC60 e al 706. Sì, che la fanno, già la fanno. La fanno. Lo devi richiedere tu però, praticamente le devi chiedere il cavetto clippato, uscita 8 per il tempo, se no te lo fanno per l'ICOM. Che vuol l'ICOM, bisogna farlo. Che vuol l'ICOM, sì, l'ha fatto. Stavo guardando su internet e non l'ho trovato da nessuna parte. Non è che lo troviamo. Sì, ma infatti. Già va bene lo stesso. Questo qua l'ho agganciato adesso e girava il frequenzimetro a 1000. E come mai? Oh, prima funzionava, poi avevo sentito la radio a aggiustarmela, avevo un problema, è ritornata e adesso non va più bene. Sì, ma tu non ce l'hai il cavetto però? Sì. Ah, ce l'hai? Sì, me l'aveva fatto Luca, me l'aveva fatto. Sì, allora cosa? Già andava. Oh, non va bene, non va bene per niente. Ah, non va bene. Allora bisogna praticamente di quel punto nuovo. Ora l'ho comprato dalla Marcucci, 43 ho compreso il viaggio, me l'aveva fatto magari. Costano questa vita. Io ce l'ho, però c'ho quello che conduco, però c'ho quello per un attacco diverso, dai. Sono per 24-10H. Ah, e non va bene quello? No, perché c'è l'attacco a PL, là, tipo PL. Ciao. Mentre questo qua è quello a sinistra. Ho capito, Tio. E allora bisogna farlo fare. Sì, è a te non va. Ti chiami a fare. Che lo fa? Prova a chiedere la Vannina, ma ce lo fa. Ce l'hai già fai, dove c'è il goccio? Sì, Vannina. Ma non so come cosa c'è. Sì, che c'è. Ho visto un giorno, l'ho visto poi, non sono partito di nuovo. Non sto lavorando. Non penso che parta adesso, non lo so. E la cassera che sei? Ti scendo a vedere allora. Sì, scendici, mi fa piacere. Noi ci siamo sentiti per telefono a poco. Però io ho visto il piatto, mi ci dica così. Così. E poi non ho visto più. Ehi, vabbè, anche lui poco starà uscendo. Io non riesco a fare, per carità, a stare al bar. Sono al bar, lui è. Allora, stasera prende poco niente. Pare che non sia successo nulla, tutti erano ammazzati lì, di rubare, e a capolino. Io vedete fra, tra i fratelli in basso la macchina, ve l'avete detto? Sì, vabbè. Peggio per loro, io gli hanno detto che mi scende. Sono io, sto facendo casa e lavoro, quello che sto facendo, poi vado a prendere mia figlia al bar, e poi basta fra. Niente, sono finiti gli yoghi, vabbè. Tranquilli, ti devo lasciare che devo andare a portare il cane, dai. Grazie dei controlli. Se ci sei a dopo, altrimenti a domani, ok? Ciao, ciao, buona passeggiata. Ciao, grazie, fra. Attenzione 10, c'è qualcuno? Sì. 1, 2, 3, prova. Hola. Che bara? Chi è avanti? Chi è che sia, il re della montagna. K, come ti senti con questa radio? Bene, bene, 9:10 radio 5. K, e mi la sto provando a vedere come va. Cos'è il portatile? È una cannonata il suo portatile. Io lo so che è una cannonata, se funziona, non è una cannonata. Ho messo l'SP. Ehi, Gianni te l'ha dato. Una persona l'ha dato. Ti ho fatto una domanda, meno è che devi nascondere. Solo lui ce l'ha portato e quindi più che lui non te lo so per dato. Benissimo, sono contento che ce l'hai tu. Tanto lui in macchina non lo usa più. Kappa. No, ma già va bene, ho visto, cavolo. Questo qua ce l'aveva somigliante, mio padre ce l'aveva e andava bene. Non so che andava bene, non me lo ricordo. Kappa.